America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, ieri vi ho parlato a lungo di questo incidente tra la Sony, gli hackers, le minacce per la proiezione del film The Interview. Ebbene, la Sony e molte catene del cinema americane sono andati a canossa. Hanno ritirato il film dalla proiezione fissata per il 25 di dicembre, per il giorno di Natale. Questo film The Interview, un film comico tra l'altro, che prendeva un po' in giro, forse in modo eccessivo, perché questi due comici che andavano a intervistarlo in realtà avevano la missione di ucciderlo. Uccidere chi? Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord. Insomma, una marcia indietro. Hollywood, la Sony in questo caso, non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo. Ecco, è una storia un po' da guerra fredda in qualche modo, perché la Corea del Nord che si offende per un film che l'attacca, fa delle minacce, indirettamente pensiamo che arrivino dalla Corea del Nord, ed è una storia che capita nel momento in cui si è chiusa una pagina storica, proprio nel contesto della guerra fredda, ormai finita da 25 anni, e cioè la normalizzazione delle relazioni fra Stati Uniti e Cuba. Come è successo? And I want to thank all of the members of Congress from all sides of the aisle, such as Senator Flake, Representatives Crispin Holland and Barbara Lee, and numerous others who spoke up for, visited me, subjected themselves to my ranting and helped me regain some of my weight. Even in Cuba, M&M's melts in your mouth, not in your hand. Alan Gross, come è successo? È successo che c'è stato uno scambio di prigionieri. Alan Gross era un funzionario americano che aveva lavorato a Cuba, era stato accusato dai cubani di spionaggio, di voler mettere su degli impianti internet per destabilizzare il paese, e l'hanno messo in prigione. Gli Stati Uniti avevano due prigionieri cubani, due agenti cubani. C'è stato questo scambio di prigionieri condito anche dal rilascio da parte di Cuba di un agente americano cubano, un cubano che era diventato un agente americano, che era anche lui in prigione 15 anni, è arrivato negli Stati Uniti di questo signore, non sappiamo il nome, perché operava nel totale anonimato. Ma dietro questa liberazione, beh, c'è un lavorio diplomatico straordinario, c'è un'amministrazione americana che è stata al lavoro per un anno, c'è stato l'intervento di Papa Francesco che ha fatto da garante e da mediatore nei momenti più difficili, c'è una pagina di storia in sostanza che voltiamo in modo definitivo. Sentiamo Obama. Over many months, my administration has held discussions with the Cuban government about Alan's case and other aspects of our relationship. His Holiness Pope Francis issued a personal appeal to me and to Cuba's President Raul Castro, urging us to resolve Alan's case and to address Cuba's interest in the release of three Cuban agents who've been jailed in the United States for over 15 years. Today, Alan returned home, reunited with his family at long last. Alan was released by the Cuban government on humanitarian grounds. Ecco, avete sentito il presidente americano, vuol dire, una delle battute che mi ha colpito di più in questo suo intervento, in cui dà la misura di quel che succederà fra Stati Uniti e Cuba, cioè ci sarà per la prima volta dal 1961 un'ambasciata americana a Cuba. I turisti americani potranno tornare a La Habana, potranno tornare a spendere con carte di credito che prima non erano ammesse, potranno aprire dei conti bancari, ci saranno le banche americane che arrivano a Cuba, ci saranno i voli diretti delle linee aeree americane e così via, così via. Per le sanzioni bisognerà attendere, perché dovranno essere eliminate dal congresso repubblicano che protesta. Che cosa? Beh, protesta, secondo me, una dichiarazione alla palissiana di Barack Obama. Quella che mi ha colpito di più è quando dice: questa crisi con Cuba ce l'abbiamo per degli episodi che sono avvenuti prima che io nascessi. Ecco, c'è questa straordinaria lungaggine. Ieri in qualche modo chiudiamo con il passato, un passato lontano, avventure come la Baia dei Porci, l'ipotesi di una vendetta cubana per uccidere John Kennedy, gli eccessi del regime Batista, i canti di un Fidel che ormai poveretto è ridotto a una larva umana, sono stati finalmente relegati in un capitolo chiuso della storia. Obama ha detto: normalizziamo, apriremo un'ambasciata a La Habana, e si è voltata pagina. Basterà? Today's announcement from the White House is so profoundly disappointing. In short, what these changes are going to do is they will tighten this regime's grip on power for decades to come. But this president has proven today that his foreign policy is more than just naive. It is willfully ignorant. This president is the single worst negotiator we have had in the White House in my lifetime. Beh, a qualcuno non basta. Io dico che quello che ha fatto Obama ieri non potrà più consentire di tenere come punti di riferimento una mentalità di guerra fredda nella testa di alcuni militanti, di alcuni politici che pensano ancora che ci sia un conto da saldare. Avete sentito per esempio Marco Rubio, cubano, nato nel 1971 in Florida, a tutti gli effetti americano, senatore, possibile candidato alle presidenziali, che è contrario. Ma sono posizioni, quelle sue, quelle di John Boehner, presidente della Camera, che suonano già vuote e stantie. Perché? Ecco, perché sono vuote? Ma perché se voi andaste a Miami per le strade di Little Havana, dove mi è capitato di essere più volte, prendete un drink al caffè Versailles, passate per il Domino Club, vi accorgete che la normalizzazione cubana-americana è già avvenuta. Questa idea che resti la guerra fredda può essere nella testa di Muscolito, che Eugenio Ruando Martinez, 92 anni, pensate, lo intervistai molti anni fa, è stato uno degli animatori della Baia dei Porci, protagonista dello scandalo Watergate. Ma i nuovi cubani sono cubani americani. Sono personaggi che si sono integrati, che non pensano più di tornare a Cuba se per caso Cuba diventa democratica. Non c'è più l'ambizione del ritorno. Ormai sono radicati qui. A Cuba, mi diceva uno di loro, ci sono 10 milioni di cubani che non conosciamo, che sono nati dopo la nostra partenza. Diverso è il recupero di un rapporto con un paese di origine che resta un grande punto di riferimento. È recupero ovviamente democratico che ancora non c'è e probabilmente non ci sarà per qualche tempo, ma intanto siamo andati avanti. Siamo andati avanti con un messaggio di fine d'anno che vale anche per il signor dittatore nordcoreano che minaccia le sale cinematografiche americane e per il signor Vladimir Putin che continua anche lui, come il nordcoreano, a poggiare su punti di riferimento che si rifanno alla guerra fredda. La guerra fredda è finita, era finita 25 anni fa, è finita anche ieri tra Cuba e Stati Uniti d'America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica? E beh, uno per tutti, la Federal Reserve ha fatto un comunicato in cui conferma che nel 2015 i tassi di interesse aumenteranno. Vi rimando ad america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di Cuba, concentriamoci su questo, una svolta storica, Cuba è quasi libera e dunque Cuba Libre di Gloria Estefan. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!